Finestra illuminata, capitolo dodicesimo di Mirice. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Sergio Baldelli a Città di Castello in dicembre 2007. Mirice di Giovanni Pascoli, capitolo dodicesimo, finestra illuminata. Primo, mezzanotte. 8, 9, anche un tocco, e lenta scorre l'ora, ed un altro. Uggiola un cane, un chiù singhiozza da non so qual torre. È mezzanotte, un doppio suon di pesta sode che passa. C'è per vie lontane un rotolio di carri che s'arresta di colpo. Tutto è chiuso, senza forme, senza colori, senza vita. Brilla, sola nel mezzo alla città che dorme, una finestra come una pupilla aperta. Secondo, un gatto nero. Uomo che vegli nella stanza illuminata, chi ti fa vegliare? Dolore antico o giovine speranza? Tu cerchi un vero, il tuo pensier somiglia a un mare immenso, nell'immenso mare una conchiglia, dentro la conchiglia una perla. La vuoi, vecchio, un gran bosco nevato, ai primi languidi scirocchi parla tua faccia. Un gatto nero, un fosco viso di sfinge, t'apre i suoi verdi occhi. Terzo, dopo, forse è una buona vedova. Quand'ella facea l'imbastitura e il sopramano, venne il suo bimbo e chiese la novella. Venne ai suoi piedi, ella contò del topo, del mago. Alla costura, egli pian piano l'ultima volta le sussurrò. Dopo tanto, c'è sempre qualche occhiello. Il topo è morto, s'è smarrito il mago. Il bimbo dorme sopra lo sgabello, tra le ginocchia, al ticchettio del lago. Quarto, un rumore, una fanciulla. La tua mano vola sopra la carta stridula, s'impenna. Gli occhi cercano intorno una parola. E la parola te la dà la muta lampada che sussulta, onde la penna la via riprende, scricchiolando arguta. Sst, un rumore, ai labbri ti si porta la penna, un piede dondola. Che cosa? Nulla. Un tarlo, un brandir lieve di porta. Oh, mamma dorme e sogna che sei sposa. Quinto, povero dono. Getta quell'arma che ti incanta. Spera l'ultima volta, aspetta ancora, aspetta che il gallo canti per la città nera. Il gallo canta, fuggono le larve, fuggirà, fuggirà la maledetta maga che con fatali occhi t'apparve. Verrà tua madre morta, col suo mesto viso, col mormorio della sua prece. Ti pregherà che tu lo serbi, questo povero dono, ch'ella un dì ti fece. Sesto, un rondinotto. È ben altro. Alle prese col destino veglia un ragazzo che con gesti rari fila un suo lungo penso di latino. Il capo ad ora egli solleva dalla catasta dei vocabolari, come un galletto garrulo che beva. Povero bimbo, di tra i libri via appare il bruno capo tuo, scompare, come d'un rondinotto, quando spia se torna mamma e porta le zanzare. Settimo, sogno d'ombra. Rantolo d'avo, rantolo d'infante, parluno il cigolio d'un abbaino a cui percuota l'aquilone errante. L'altro è come a fior d'acqua un improvviso vanir di bolla, donde un cerchiolino s'apre ogni volta e scivola nel viso. Vissero, quanto? Le pupille fisse chiedono. Uno la gente di sua gente vide, l'altro non sé, ma l'uno visse quello che l'altro, un sogno d'ombra, un niente. Ottavo mistero. Vergine, bianca sopra il bianco letto, ti prese il sonno a mezzo la preghiera? Tu hai le mani in croce sopra il petto. Ti prese tra i due ceri e le corone quel sonno? In mezzo agli ave della sera? Tu dici ancora quella orazione. Tieni il rosario tra le mani pie. Non muove i labbri un tremito leggero? Ma non scorrono più le Ave Marie e tu contemplerai sempre un mistero. Nono, vagito. Mammina, bianca sopra il letto bianco tu dormi. Chi sul volto ti compose quel dolor pago e quel sorriso stanco? Tu dormi. Intorno al languido origliere tutto biancheggia. Intorno a te le cose fanno piccoli cenni di tacere. E tutto albeggia e tutto tace. Il fine è questo? È questo il cominciar d'un rito? Di tra un silenzio candido di trine parla il mistero in suono di vagito. Fine del capitolo dodicesimo.